Achtung, Liebfrau Milch im Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schweinhund, Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM, che vi parla come sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos, dove splende un sole caldo, e se l'altra volta era primavera stentata, oggi è veramente primavera decisa. Siamo ancora sui 24 gradi, ma non è la rubrica del meteo, è Mighty FM ed è la seconda puntata speciale dedicata ad un evento che ci sta molto a cuore e che a cui parteciperemo, anzi, per la sesta volta consecutiva dal secondo anno della sua esistenza. Infatti nel 2012 un gruppo di intraprendenti amanti della musica portoghese e organizzatori di eventi hanno deciso, ovviamente in accordo con la casa madre, il Primavera Sound di Barcellona, di fare un'edizione più ridotta e il weekend successivo presso Porto, presso il Parc da Cidade di Porto. E noi, per motivi personali, anagrafici, di innamoramento di quel paese e di volontà di più relax e anche più risparmio, se la devo dire tutta, abbiamo deciso di diventare fan appassionati e anche, insomma, rappresentanti per la stampa di questo festival. Ed è per questo che quest'anno abbiamo deciso di fare non le solite due puntate per raccontare il programma di questo festival, ma ben tre, perché il festival sta crescendo. E l'altra volta abbiamo parlato della prima giornata, abbiamo detto di come gli act del primo giorno siano cresciuti in modo sostanziale, praticamente raddoppiati, abbiamo ascoltato praticamente tutto ed eccoci arrivati al venerdì 8 giugno, perché il festival si svolge giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 giugno a Porto, e iniziamo in ordine alfabetico con uno che poi è uno degli headliner di questa giornata del venerdì, ovvero A$AP Rocky. Bad companies, bad for your company. Bad companies, bad for your company. Mag in the ski mask in case you come for me. Got the mag in the ski mask in case you come for me. When I say I got beef, they don't want no beef. When they say they got beef, they don't wanna eat. If you say they want smoke, they don't want no steam. She put a beat on a T. Had a bachelor's degree, PhD while selling speed. Fix the face and fix the weed. Now working on the self-esteem. Hit a block, yo, this flop. Nigga, where you at? Pin the drop. My new map location be the flop. On the app. Santa's reindeer. You got bad bitches, hella hoes. It's the same here. Bad company, little bro. You can't hang here. Stiamo ascoltando Bad Company, un pezzo uscito a fine marzo. Più recentemente ne è uscito un altro, A$AP Forever, sulla base di Porcelain di Moby, come anticipazione del nuovo album Testing, che non è ancora uscito. Il terzo album per A$AP Rocky, ovvero Rakim Myers, nato ad Harlem nell'88, rapper, modello e produttore, che prende il nome dal collettivo hip hop A$AP Mob. Ha iniziato a 13 anni a fare rap più seriamente, in conseguenza anche della morte di suo fratello ucciso ad Harlem. Lui da adolescente faceva lo spacciatore, vivendo con madre e sorella, passando tra vari rifugi per senza tetto di New York. Nel 2007 entra nel collettivo A$AP Mob, nel 2011 fa il primo singolo, poi nel 2013 il primo album, e appunto nel 2018, quest'anno, uscirà il terzo. Fruity pepper, bezel, Wilma, Betty, bread and Barney. Bad bitch from out of town, I think she model at McCormick. Risk game, lucky chummy, told my jeweler leper call me. I'ma come clean, I got hella beef. Paranoia got me rolling on my sleeves, okay. Niggas hating cause I'm up and up the fees. Whole team got beats on their teeth all day. È il primavera c'è sempre una rappresentanza della scena rap hip hop. Già nella prima giornata ci sarà Tyler the Creator e invece A$AP Rocky, e poi sentiremo dopo Vince Staples per questa seconda giornata del Primavera Sound, che come dicevamo ha anche dei nomi, a partire dall'anno scorso si è differenziato rispetto a Barcellona perché ospita dei nomi che non sono anche a Barcellona, e uno di questi, e siamo molto contenti, è Amen Dunes, e questa è la bellissima Blue Rose. Che anche grazie al nostro caro Cacchione, ovvero DJ Apsco, è già in programmazione per le sue bellissime playlist della prima mattina dalle 9 alle 11, Wake Up, sempre su Radio Kairos. Dunes, un trio guidato da Damon McMahon, newyorkese, indie rock con venature psichedeliche, desert rock, 5 album dal 2009, l'ultimo uscito da poco si chiama Freedom, è molto bello, e oltre a Blue Rose sono molto belle, secondo me, Time, Dracula e la title track. Quindi Amen Dunes saranno solo a Porto, come appunto gruppi della scena portoghese che non mancano mai per riempire di solito i primi slot ad apertura della giornata, perché la giornata sarà anche dedicata dai nomi che vengono poi sparpagliati le varie giornate anche alla scena stoner rock psichedelica. E infatti ci saranno i Black Bombaim, un gruppo di Barcelos, da cui viene la famosa leggenda del gallo di Barcelos, piccola città nel nord del Portogallo, abbastanza vicino all'oceano, che fanno delle session strumentali lunghissime, anche piuttosto sperimentali, ma non li ascolteremo per passare invece ad altre headliner della giornata, ovvero Good Morning. E effetto summer in diretta, ho visto Alberto online, io ho detto ma stai ascoltando la radio, per ridere, e invece era in macchina e l'aveva appena accesa. Yeah! E allora sarà anche contento di aver acceso nel momento in cui ci sono le Breeders. Good morning. The Breeders, ovvero all'inizio nato come, diciamo, progetto parallelo di Kim Deal, storica bassista dei Pixies, insieme a sua sorella Kelly, che però faceva un po' fatica ad andare avanti perché Kelly stava un po' dentro e fuori dalla galera. Ricordiamo appunto un album storico che ormai ha fatto la storia della musica, come Last Splash e in particolare la canzone Cannonball. E appunto è la formazione originale di allora, ovvero con Josephine Wicks al basso e Jim McPherson alla batteria, che dopo aver comunque fatto un tour e già essere state al Primavera nel 2013 per l'anniversario dei 20 anni appunto di Last Splash, sono uscite quest'anno con un nuovo album, All Nerve, ovvero Tutta Faccia Tosta, che è stato anticipato già l'anno scorso con questo singolo che stiamo ascoltando, Wait in the Car, a cui abbiamo voluto aggiungere un altro pezzo appunto alla title track, un altro singolo che un po' insomma rappresenta le due facce, quella più rock and roll e quella invece più tenera delle Breeders, All Nerve. Nerve, ultimo singolo e title track del questo grande album delle Breeders, che comunque ha anche riscosso il giudizio positivo della critica con una media dell'8,3, e i nostri affezionati ascoltatori, o meglio ascoltatrici, saranno anche felici di sentire un altro dei nomi da noi più attesi e più insomma importanti di questa seconda giornata, ovvero Fever Ray, Karin Dreyer. Non so se ancora Anderson con tutte le sue uscite lesbo queer, soprattutto questo nuovo album Plunge, uscito a fine 2017, mi hanno raccontato di un live favoloso a Milano. Già a Mighty FM abbiamo sentito To the Moon and Back e IDK About You come best track contenute nella classifica di Pitchfork per il 2017. I Don't Know About You, che vedeva anche la partecipazione di Nidia, producer, beatmaker della scena post-cuduro portoghese. Poi abbiamo sentito Mama's Hands nella puntata dedicata a Tune Yards. Invece oggi ascoltiamo uno degli altri molto belli pezzi, ovvero Part of Us featuring Tammy T. Ci ha fatto aspettare 8 anni dopo il debutto nel 2009, il suo progetto solista, e dopo la fine ormai dichiarata dei Knife, diciamo che ha ripreso anche molti dei suoni dei Knife. Potrebbe essere proprio una continuazione, perché manca infatti quello che era un po' il timbro, il suono distintivo dell'album d'esordio, ovvero questa voce manipolata, mascherata, scurita, e invece questa era sua vocina, A Part of Us, Fever Ray, Plunge. È indubbiamente uno dei concerti più attesi per me personalmente, e non solo. Mi hanno raccontato della presenza di 3 ballerine anche sul palco, anche ovviamente per una persona e poi anche un duo con i Knife, che ha sempre avuto un po' di... sono sempre stati un po' restii a mostrare la faccia, sempre truccato con delle maschere. È chiaro che la scenografia deve essere riempita, e sicuramente, anzi lo so, anche lei indosserà come sempre una maschera di qualche tipo. Continuiamo l'ordine alfabetico e siamo arrivati a Sam Shepherd, ovvero Floating Points, solo live, musicista inglese che si è fatto conoscere molto nel 2015 con l'album Elenia, questa elettronica tinta di sperimentazione jazz, famoso anche per i suoi DJ set back to back di 4-5 ore insieme a Dan Snaith, suo grande amicone, ovvero Daphne, l'anima dei Caribou. Già presente al Primavera qualche anno fa, l'abbiamo visto anche la prima edizione di Astro Festival a Ferrara. E questo pezzo un po' space rock, motoric, e appunto ancora desert rock, è stato ispirato probabilmente da un periodo passato nel deserto del Mojave. Infatti questa ultima pubblicazione del 2017 si chiama Reflections _ Mojave Desert, e stiamo ascoltando l'edit del single Edit di uno dei pezzi contenuti in questa ultima pubblicazione, che si chiama Kelso Dunes. E finisce Kelso Dunes di Floating Points. Continuiamo sempre in ordine alfabetico, che non tradisce mai, con uno dei nomi che forse ho visto più volte nei vari festival in questi ultimi 15 anni, una persona deliziosa, ovvero Kieran Ebden, in arte Fortet. Ha fatto un nuovo album l'anno scorso, è sempre stato molto prolifico. Il pezzo che avevamo ascoltato, perché era sempre nei best tracks del 2017, era Planet, che era il pezzo conclusivo appunto dell'album New Energy. Invece oggi ci ascoltiamo uno dei pezzi un po' più contemplativi e che verso la fine contiene anche appunto quei suoni che sempre di più sta inserendo nei suoi pezzi e che fanno riferimento, insomma, alle sue origini, ovvero poi suoni e gli strumenti del subcontinente indiano. Questo pezzo si chiama Memories. Alla fine, ma anche dall'inizio. Questa era Memories di Fortet. Anche di lui abbiamo un, diciamo, un jingle per Radio Kairos che non abbiamo ancora mai trasformato in vero e proprio spot. Accidenti a noi. Ma passiamo ai Grizzly Bear. Sono contenta di poterli vedere ancora una volta. Band nata a Brooklyn nel 2002, anno in cui poi lì si sono formate innumerevoli band di art, pop, indie un po' sperimentale, tra gli Essayer, MGMT, Vampire Weekend. Questo pezzo è meraviglioso, è stato un pezzo di anticipazione dell'ultimo album, Painted Ruins, mi ricordo appunto di averlo ascoltato innumerevoli volte a Vodafone FM. Ed Ross, Daniel Ross, Chris Taylor e Christopher Bear, che hanno raggiunto un grande successo con il pezzo Two Weeks, anche perché era usato in, non so, in qualche pubblicità molto popolare, tratto da Vecca Timest nel 2009. E noi infatti li vedemmo l'unica volta che andammo al Barcellona, al Primavera Sound di Barcellona nel 2010. Mighty FM aveva fatto una puntata monografica su Shields del 2012, appunto all'inizio nel 2013, quasi come appunto per noi miglior disco tra i migliori dischi di quell'anno, e poi è passato diverso tempo prima appunto di Painted Ruins, ma adesso non roviniamo più la bellissima Morning Sound. We'll be right back. Sound, Grizzly Bear, bellissima. E quando le ore si faranno piccoline, perché appunto c'è sempre la parte del clubbing, noi saremo pronte, prontissime per godere della musica di uno degli altri nomi da noi molto attesi. Tra l'altro poi sono tutte femmine quelle che noi aspettiamo con trepidazione, ovvero Helena Auf da Amburgo, DJ e producer che appunto non sarà a Barcellona, sarà solo per noi a Porto. Sì, DBM, Industrial, Electro, debutto con un album Discreet Desires nel 2015, dopo 5 EP e singoli dal 2013. L'ultima release è un EP dal titolo Have You Been There, Have You Seen It del 2017. Noi abbiamo potuto già ascoltarla, guardarla, fuma come una turca a Zona Roveri fino a ottobre 2016 e poi al Club to Club nel novembre scorso, quindi tanti cuoricini per lei. Ascoltiamo un mix tra due pezzi di questo ultimo EP, ovvero Do You Really Think Like That, seguito da Gift. Ecco, è entrato il secondo pezzo, Gift, tutte e due devo dire molto fichi, d'altra parte ce lo dice anche Olivia, d'altra parte noi scegliamo i pezzi che ci piacciono, anziché no, che ci piacciono da suonare e da ballare. Poi ovviamente le foto promozionali, lei è molto bella, molto carina, molto truccata eccetera, quando suona maglietta nera, jeans neri, è veramente, sembra una carcamanna diremmo noi, fuma appunto come una turca e non è particolarmente femminile, stereotipicamente femminile nei suoi movimenti, è bravissima. E un'altra nome tutto femminile che aspettiamo con grande emozione, è stato uno dei dischi che abbiamo ascoltato molto a fine dell'anno scorso, sono le IBG, ovvero sorelle francesi di origine venezuelana e cubana, Lisa Kaindé e Naomi Diaz, gemelle nate il 13 dicembre 94 a Parigi, quindi giovanissime. padre era un famoso, è stato un famoso percussionista cubano, anche parte del Buena Vista Social Club, ha vinto anche un Grammy. Le lingue in cui cantano sono il francese, l'inglese, lo spagnolo e lo yoruba. Infatti Ibeji significa gemelli in questa lingua dell'Africa occidentale, della Nigeria, la lingua dei loro avi, poi deportati come schiavi a Cuba nel XVIII secolo. E anche nei loro testi c'è anche un riferimento alla religione afrocubana, la santeria. Dopo un debutto nel 2015 con un album omonimo, nel 2017 appunto è uscito Ash, un disco bellissimo, troppi i pezzi belli. Nel Best of 2017 abbiamo ascoltato Deathless con Kamasi Washington, oggi mixiamo, per oggi abbiamo mixato due delle nostre canzoni preferite, ovvero Away Away, seguito da No Man Is Big Enough For My Arms, senza dimenticare anche l'altra molto bella, I Want To Be Like You, Ibeji. Di ogni società è come tratta le sue donne e ragazze. Questo pezzo molto bello, che per tutta la sua durata contempla il campionamento di un importantissimo discorso di Michelle Obama sull'importanza dell'educazione, dell'accesso all'istruzione e del dovere di protezione delle donne e le ragazze per ogni paese che si possa definire civile. Because girls like you inspire me. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. The measure of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man, no man is big enough for love. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. E questa bellissima atmosfera verrà distrutta e travolta invece dalla prossima band, ovvero gli Idols. E come dicevamo, ci sono anche diversi gruppi appunto rocchettoni, e in questo caso proprio punk. Si tratta di una band, un quintetto guidato da Joe Talbot, Bristol, hanno fatto il primo album nel 2017, anche se insomma andavano avanti già da qualche anno. Non a caso l'album si chiama Brutalism, ha questo parlato, cantato tipico del punk working class britannico, un po' simile agli Sleaford Mods se avesse una base un po' più elettronica. Questo pezzo si chiama Well Done, è uno dei singoli Idols, non come idoli ma come senza far niente. E ovviamente i testi sono sempre molto provocatori di critica politica e sociale, social commentary direbbero quelli che scrivono in inglese. In realtà come se fossero anche degli act di stand-up comedy in canzone. Ancora suono, cambiamo ancora genere, siamo arrivati sempre ad un altro dei nomi da dance floor, diciamo, un produttore e DJ molto molto stimato, Levon Vincent, newyorkese, inizia a fare il DJ da teenager alla fine degli anni 80, adesso di base a Berlino. Lui di solito fa una techno astratta piuttosto sperimentale, anche i dischi precedenti erano molto venati dalla house, innumerevoli singoli dal 2002, primo album nel 2015, suo omonimo, e nel 2017 ha pubblicato For Paris, da cui ascoltiamo poi comunque il pezzo più anomalo rispetto al resto dell'album, che si chiama If We Choose Peace. We'll be right back. Chi si fosse accidentalmente sintonizzato sulle nostre frequenze in streaming o in FM, magari è più facile in FM accidentalmente che non in streaming. Questa è Might FM, stiamo parlando del NOS, Primavera Sound Festival, edizione portoghese, infatti sempre preceduto obbligatoriamente da NOS, ovvero super sponsor anche del NOS Alive di Lisbona, ovvero super gestore di televisione, telefonia, eccetera, eccetera. Piattaforme digitali in senso lato, e stiamo parlando della seconda giornata e siamo arrivati a uno dei nomi che riempiranno il dance floor, un nome appunto molto apprezzato, veramente alta gamma, come abbiamo già ascoltato Elena Auf, e un altro nome che ci farà ballare, che ci fa capire che quindi insomma la nottata sarà più virata alla techno, è Marcel Detman, che non ascolteremo. Abbiamo visto al Lisboa Dance Festival, abbiamo notato come avesse proprio una faccia da felino, da gatto e da leone, infatti ci ha fatto molto ridere quando abbiamo visto che stava bevendo un bicchierone con un liquido bianco che quindi sembrava latte. Marcel Detman, resident storico del Berghain, è iniziato a 17 anni, adesso ne ha 40, è uno, considerato uno dei nomi più influenti della techno contemporanea, comunque una techno molto scura. Invece noi stiamo ascoltando questo pezzo invece molto delicato di Levon Vincent. E siamo arrivati a DJ Lee Cox in rappresentanza della effervescente scena portoghese, la scena post-cuduro, di origine, la musica ritmo batida di origine angolana, e appunto si esibirà solo a Porto e non a Barcellona, sebbene tutta questa scena, le produzioni soprattutto dell'etichetta Principe, per cui incide sia Lee Cox che Nidia, che abbiamo nominato prima, riceve molta molta attenzione dai media specializzati, anche da Pitchfork, e non, a parte che appunto abbiamo anche degli act nostrani come Ninos do Brasil, che hanno attinto a piene mani a questa tradizione musicale e il suo sviluppo così legato alla musica elettronica, al poliritmo, appunto le radici sia brasiliane che africane, e che quindi si uniscono la scena musicale portoghese. DJ Lee Cox, suo album di debutto, è uscito da pochi mesi, a fine 2017, si chiama Sonhos e Pesadelos, ovvero Sogni e Incubi, e questo pezzo si chiama Galinha, che significa esattamente quello che sembra, ovvero gallina. dei ritmi che ho imparato ad amare, anche a ballare, anche se ci vorrebbero delle giunture di ginocchia un po' più solide delle mie. E adesso passiamo ad una nuova sensation della scena invece rock and roll, ovvero Mattiel. In realtà si tratta di un trio guidato da una ragazza georgiana di base ad Atlanta, come una riot girl dell'alternative country, del rock blues, anche se ci sono molti pezzi retro tipo stile girl groups degli anni 60. Nel 2017 album di debutto omonimo, e questo è il primo singolo, credo, Whites of Their Eyes. Incide per la piccola super indipendente Bulger Records californiana, che produce, pubblica soprattutto dischi in cassetta, un po' come la nostra bolognese Maple Death Records, un trio con altri due musicisti che scrivono la musica e lei invece scrive le parole e ovviamente la melodia. Un altro nome molto giovane che insomma ci incuriosisce abbastanza è quello di Marlene Nader, classe 95 in arte Mavi Phoenix, austriaca di origine siriana. Dal 2014 ha iniziato a far musica, il suo stile è stato definito un safari nell'universo dell'urban music contemporanea tra Mia, M.I.A. e M.E. Ha fatto un EP nel 2017 che si chiama Young Prophet, che contiene questo pezzo che appunto ho letto fosse un singolo di molto successo, si chiama Aventura, è molto interessante. Anche un altro pezzo interessante è Janet Jackson e lei è Mavi Phoenix. City, hate the vibe. Lo siento. I only make music with my guys. Don't send beats, don't even try. Cause of Spanish, I had to do the 10th grade twice. They know I'm an aventura. They never. They say that nobody true. They never. No, nobody can blame us. They matter. They mad they ain't famous. Everybody stare, everybody stare. Mavi Phoenix, e vorrei dire che io penso che ultimamente sono proprio le giovani donne musiciste ad osare di più nella musica, a fare cose più sperimentali, più strane se vogliamo, più sghembe, e ce ne sono tante, dalle Smerz a Karin a questa appunto Mavi Phoenix, che pochi giorni fa ha pubblicato un nuovo pezzo dal titolo Yellow, che è appunto un misto tra, cioè, Mia Yey che canta con la voce stile Chipmunk. E quindi ci fa piacere che, siccome i nomi sono molti, molti di meno, praticamente un terzo di quelli che sono a Barcellona, la presenza femminile è in percentuale più alta e la rappresentanza più ampia. Infatti ho notato anche che dei nomi di DJ, soprattutto producer, che suonano solo a Porto, sono praticamente tutte donne. E una di loro, che invece sì, è anche a Barcellona, è Shanti Celeste, producer cilena di base adesso in Gran Bretagna, una produzione mutante tra house del debutto del 2014 che si chiamava Days Like This e invece i ritmi più fratturati e più techno dell'ultimo EP Make Time del 2017, Shanti Celeste. Il pezzo che stiamo ascoltando è appunto la title track di questo EP, Make Time, a cui abbiamo voluto mischiare, come sempre, un altro pezzo di questo EP che si chiama Thoughts. Thank you. stata definita Shanti Celeste un camaleonte artistico, tra l'altro anche una sua etichetta, la Peach Discs, e anche lei è un host radiofonico, come sempre più spesso accade, presso la NTS Radio, la stessa emittente in cui hanno fatto i loro programmi Mount Kimby. E un altro nome che non ascoltiamo, proprio una questione di principio, e che sarebbero di seguito, sono gli Shellac di Steve Albini. Ogni anno, è proprio una cosa di principio, è proprio un accordo con il festival, tanto che il giorno dopo della fine del festival dell'anno scorso, la pagina del NOS aveva già creato l'evento sull'edizione di quest'anno con artisti confermati Shellac. Perché ovviamente ci sono, ci saranno sempre, ovviamente non le ascoltiamo, sempre a conferma della giornata punk, stoner o psichedelica, e infatti anche rappresentanza proprio del rock, anche questo un po' motorik, cioè un altro gruppo portoghese che appunto non suonerà a Barcellona ma solo a Porto, un trio anche loro di Barcelos come i Black Bombaim, si chiamano Solar Corona e questo pezzo si chiama Rebound. Solar Corona, devo dire che ci sono tanti gruppi portoghesi che fanno solo musica strumentale, sempre queste suite, queste cavalcate. Pezzo che stiamo ascoltando è Rebound, tratto dal loro ultimo EP, più che altro un doppio singolo, due pezzi, Specimen Days del 2016, a cui seguirà una delle grandi sensation, diciamo un po' hype, un gruppo che è stato veramente, sta venendo molto molto promosso. All'inizio era misterioso, tanto si vociferava che fosse un ennesimo progetto di Damon Albarn, invece no, sono i Super Organism, sono davvero un super organismo, un gruppo dal numero di membri variabile, tipo dai 6 agli 8 e dall'età che va dai 17 ai 32 anni, che comprende membri di Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. La storia è che la cantante ha 17 anni, è giapponese, Orono Noguchi, detta Ojei. Lei praticamente a 14 anni se n'è andata da sola perché voleva fare le superiori negli Stati Uniti, se n'è andata nel Maine e a 17 anni, quando ha finito la scuola, nel frattempo era diventata molto fan di un gruppo neozelandese, gli Eversons, e quindi si è unita ai quattro membri di quest'altra band e hanno dato appunto vita ai Super Organism. Gli altri membri della band sono Mark, detto Emily, Christopher, detto Harry, Tim, detto Toucan, Blair, detto Robert Strange, responsabile dei visual e della scenografia, più tre vocalist, ballerine, musiciste extra, ovvero Ruby, Bee e Sol, che ci possono essere o non ci possono essere. Dicevo, sono stati veramente molto pompati questa prima uscita, già sono usciti credo già tre singoli l'anno scorso prima dell'uscita del disco e altri tre quest'anno. Ascoltiamo l'ultimo, Nighttime, l'album, il titolo è omonimo, ascoltiamo questo pezzo, Nighttime, che è praticamente un plagio di Young Folks di Peter, Bjorn and John, Super Organism. Ricorda anche quei gruppi che c'erano, cioè, ormai 10 anni fa, questi collettivi molto rumorosi e colorati, tipo come i Got Team, Architecture in Helsinki. E invece sono i Super Organism, che saremo comunque curiosi di vedere. Noi temiamo sempre delle sovrapposizioni mortali, speriamo che almeno per quelli che desideriamo di più vedere non ci siano appunto cose tanto dolorose. L'ordine alfabetico ci porta a Thundercat, che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Mighty FM, un virtuoso del basso, Stephen Brunner, Los Angeles, e quindi anche un frequente collaboratore, Kamasi Washington e Flying Lotus, tutta questa scena appunto che ha ripreso appunto la sperimentazione, il free jazz, il cosmic, lo space jazz. Abbiamo già ascoltato dall'ultimo album, dell'anno scorso abbiamo ascoltato Bus in the Streets e Tokyo per la puntata dedicata al Line Check Festival di Milano, perché appunto era uno dei nomi principali di quel festival, e invece poi per la puntata sul Best Canzoni Migliori del 2017 abbiamo ascoltato Show You the Way. Oggi invece ascoltiamo Friend Zone. Dopo Thundercat arriviamo ad un gruppo, diciamo, guidato insomma da una personalità, insomma, diciamo, il leader incontrastato, che appunto rappresenta la band. Lui è Ruben Nilsson, che sembra un tipo abbastanza matto. La band sono i neozelandesi A Non Mortal Orchestra. Sono molto curioso di vederli dal vivo, avrei voluto vederli con l'album precedente, Multi Love, una canzone che ci sta molto a cuore, mentre questo nuovo album del 2018, Sex and Food, è molto strano, cioè rimane questa impronta funk, psichedelica. Per esempio, il primo pezzo che ho sentito, il singolo American Guilt, cioè è un troiaio violento, diciamo così, ma non so. Quintetto appunto di Oakland, debutto nel 2011, adesso siamo arrivati al quarto album, A Non Mortal Orchestra, e ci ascoltiamo quello, il pezzo che poi assomiglia un po' di più allo stile dell'album precedente, perché ci piace di più, è Honey Bee. Hey. Unknown Mortal Orchestra, Honey Bee, tratta da Sex and Food, nuovo album uscito quest'anno, uno dei nomi della seconda giornata, venerdì 8 giugno del NOS, Primavera Sound Festival, di cui stiamo parlando qui a Maite FM. La settimana scorsa abbiamo già illustrato la prima giornata, la settimana prossima prevedibilmente presenteremo la terza giornata conclusiva. Come dicevo prima, ci sono insomma dei nomi grossi anche della scena rap hip hop contemporanea, e uno di questi che ci ha sempre fatto moltissima simpatia è Vince Staples. 1993, North Long Beach, molto territoriale, nomina sempre appunto il suo turf, la sua zona di origine, no? Infatti anche insomma le gang nascono così. È iniziato a rappare a 17 anni, ultimo di 5 fratelli, cresciuto in povertà. Ha cominciato a pubblicare dal 2012, ha fatto il primo album nel 2015, Summertime 06. Abbiamo passato in passato tre pezzi come best dell'anno. Diceva, mi è sempre piaciuta la sua voce, il suo flow, la sua faccia, come si muove. Tra l'altro lui si dichiara straight edge, non ha mai bevuto, non ha mai preso droghe, anche opere di filantropia. Ho letto che ha creato un programma per insegnare grafica, stampa 3D, progettazione, produzione musicale e filmmaking per degli studenti della scuola media appunto di North Long Beach. Nel 2017 è uscito il secondo album, Big Fish Theory, da cui appunto avevamo ascoltato per Best del 2017 il pezzo Bug Buck. Invece adesso ci ascoltiamo Big Fish featuring Juicy, Vince Staples. If you hatin', don't shake my hand, take it easy, homie. Reminiscing, sitting in that Benz of the 22 bus stop, way back when with the 22 five shot eyes on scan for the click, clack, clap of the boot, bop, bam, cuz. Show swimming upstream while I'm trying to keep my bread from the sharks. Made me want to put the hammer to my head at the park. Probably ticking with the kids, trying to get them on a straight path. The lanes mad, no, they hate to see me make cash. Got the space dash in the forum with the GPS address to your mama house. Conversations, what I'm all about. Took the smart route, never been marked out. Should have been dead broke, should have been chalked out. But it didn't happen, now it's time to get it cracking. Quarterback, I'm like I'm 40 water. Mix the holy water with the Voss. Wanna be the boss, then you gotta pay cost. Learning from the dog, I'm from Long Beach. That's a city where skinny curry strong hit. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. E quindi a fronte di tanti rapper che appunto fanno riferimento, fanno parte proprio di gang, quindi hanno diciamo questa immagine anche molto aggressiva e violenta, lui è tranquillissimo, anche il modo in cui si presenta, tipo jeans, maglietta, capelli corti, faccia veramente da bravo ragazzo, Vince Staples. E invece adesso passiamo ad un altro nome, anche lui giovanissimo, diciottenne, un giovane nato vecchio. Si tratta di un progetto che si chiama Yellow Days, guidato da George van der Broek, chiare origini olandese, fiamminghe, vista anche appunto i tratti somatici, che viene invece da un paesino, Alsmere, della campagna inglese del Surrey. Un giovane vecchio, un po' stile King Krul, fortemente influenzato da Ray Charles, soprattutto in questo ultimo disco. Ha debuttato nel 2016 con Harmless Melodies, seguito appunto l'anno scorso da Is Everything Okay in Your World? This is told me to embrace was countless. Is it something good or bad? He said it's not quite as simple as that. If the Lord saw me now, would he be so proud? Am I a sinner now? Put right over my own life. I try so hard. Every single day I wake up, open my eyes. The world is so nice. If I say, Yellow Days, 18enne inglese, questo pezzo si chiama A Smiling Face, tratto appunto dall'album dell'anno scorso, Is Everything Okay in Your World, un album sì, da crooner, anche con influenze jazz e anche hip hop in un pezzo, non potrebbe essere diversamente per chi fa musica, per chi cresce in quest'epoca. Dopo Yellow Days siamo arrivati all'ultimo pezzo. Di questa puntata si tratta di Zeal and Ardor, pseudonimo dello svizzero-americano Manuel Gagnon. Che non sarebbe stato male nella giornata che è l'ultima conclusiva dove c'è anche Nick Cave. Blues più black metal, gospel apocalittico, necromanzia, pentacoli, simboli esoterici, molto scuro, molto nero. D'altra parte l'album di debutto del 2016 si chiamava Devil is Fine. Il pezzo che stiamo ascoltando di Zeal and Ardor è stato pubblicato a fine marzo e si chiama Great Digger's Chant, ovvero il canto del becchino. E qui nei nostri appunti abbiamo un PS, nella scorsa puntata abbiamo ascoltato Father John Misty e quindi abbiamo ascoltato un pezzo di Pure Comedy, ma è notizia proprio di ieri, quindi non abbiamo fatto in tempo, che ha già pubblicato un nuovo singolo per anticipazione di un nuovo album che uscirà il 1° giugno, si chiamerà God's Favorite Customer è sicuramente lui con il suo ego, e il pezzo pubblicato si chiama Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All. Mentre adesso noi stiamo ascoltando Zeal and Ardor, questo gospel maledetto, e finisce così questa seconda puntata di Might FM dedicata alla seconda giornata del nostro Primavera Sound Festival di Porto. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Claudio Mighty Mouse su Radio Kairos.